Con Antonio Moresco affrontiamo Il Buio, il lavoro che sarà in scena all'Arena del Sole dal 5 al 17 marzo e sarà un lavoro su Santa Rita d'Acacia. Vogliamo dire due parole generiche? Questa idea di Santa Rita attraverso una invenzione, perché abbiamo poche certezze biografiche della sua vita e quindi mi sono dovuto inventare la vita di Santa Rita, e l'ho fatto andando dentro nel buio profondo della sua anima e della sua vita. La luce è in relazione con l'intensità del buio che lei attraversa, e quindi questo è uno spettacolo elementare giocato attraverso il buio e la luce, il silenzio, il suono, cioè portato al grado zero. Ho cercato di trasformarlo in uno spettacolo teatrale molto, molto primitivo ed estremo. Abbiamo anche la protagonista qui presente, Alessandra Dellatti, che interpreterà la figura di questa santa che aveva una vita, possiamo dire, normale. Sì, normale, perché era sposata e aveva due figli, per cui è più vicina, diciamo così, alla vita quotidiana che possiamo immaginare che anche noi, no? E quindi sì, più normale, non era eterea, non era una figura con delle doti straordinarie dal punto di vista estetico, ma è una figura carismatica nella sua normalità. In conferenza ha parlato di un episodio, non di un episodio, di un qualcosa che ha fatto diventare, diremmo oggi, virale Santa Rita d'Acacia durante la Prima Guerra Mondiale. E questa santa è stata anche frutta di operazioni, oggi diremmo brutalmente, di marketing formidabili. Ad esempio, sono stati durante la Prima Guerra Mondiale, per idea del vescovo, del capo dell'ordine, sono stati mandati i suoi santini ai soldati che erano in trincea nella Prima Guerra Mondiale, sia italiani che austriaci, perché anche gli austriaci erano cattolici e quindi era una santa cattolica, eccetera. E questa cosa qui ha creato una viralità, perché questi uomini che erano lì, che temevano di morire e dovevano uscire dalle trincee, affrontare la morte, eccetera, avevano questa santa, la quale aveva tra l'altro un nome formidabile, che è la santa degli impossibili, e quindi si rivolgevano a lei per aver la grazia per ritornare a casa, e quindi diventava virale, poi tornavano a casa, ne parlavano, eccetera, eccetera. Per quale motivo il maestro Moresco prescrive o richiede abiti scuri al pubblico? Richiede che il pubblico indossi abiti scuri durante la rappresentazione? Questa è una domanda scabrosa, non posso andare fino in fondo nello svelarla, ma posso dire che naturalmente la visione da parte degli spettatori dovrebbe essere attiva. Loro dovrebbero sentirsi partecipi di un'esperienza, anzi non di una visione. E per farlo è necessario che collaborino con noi, in questo caso indossando degli abiti scuri. Anche se potete facilmente intuire che il titolo dello spettacolo è Il Buio, quindi giustamente bisogna essere coerenti col titolo. Bisogna essere insieme nel buio. Benissimo, quindi ricordiamo dal 5 al 17 marzo Il Buio, un lavoro su Santa Rita d'Acacia, scritto da Antonio Moresco, che ha curato anche la regia, e con Alessandra Dellatti protagonista.